Radio 24 Reportage. Inshallah, Europa. Calais, l'ultima spiaggia, di Giampaolo Musumeci. Sturgo ashare pamlo kato raza raza pail desh rangava gulro ro raza. Thank you. Tashakkur, tashakkur. So Calais is also the name of a girl. Yes. Yeah. In Kurdi. Yes. In Kurdistan. It's the name of a girl in Kurdistan. It's a sweet name. Sweet name. But here Calais is not so sweet. Sweet, but not for us. Maybe England would be sweeter. Of course. Inshallah. Inshallah. Calais è il nome di una ragazza in curdo, un nome dolce, ma la città di Calais non è affatto dolce per i profughi curdi che davanti a me si stringono nelle spalle. Il vento dell'oceano tira forte. Se Allah vuole, inshallah, l'Inghilterra sarà più dolce. Per ora lo è solo nelle teste e nelle aspirazioni delle migliaia di migranti che ogni anno tentano di lasciare la Francia per approdare in territorio britannico. Calais, 80.000 abitanti, è un grosso porto commerciale che collega la Francia all'Inghilterra. Spazzata dal gelido vento oceanico, ti accoglie sonnolenta. Tutto ruota attorno al porto e ai viaggiatori, turisti o camionisti, che ogni giorno transitano di qui. Hotel economici e ristoranti a menù turistico, e file di camion pronte a imbarcarsi, con ordine e flemma tutta britannica. E poi ci sono loro, i migranti. Li sorprendi il tardo pomeriggio a passeggiare lungo la via che va al porto. Le scogliere di Dover sono lì a un passo, nelle giornate terse vorresti quasi allungare un dito per toccarle. A Calais, estremo lembo d'Europa, si riuniscono accomunati dalla stessa tensione afghani, curdi, eritrei, somali. C'è chi arriva da Kabul direttamente, chi è stato per mesi bloccato nelle baracche di Patrasso o nelle prigioni turche, c'è chi ha attraversato il deserto e ha conosciuto la durezza della polizia libica o tunisina. Tutti vogliono andare in Inghilterra, perché c'è lavoro, dicono, c'è la possibilità di una casa, di una vera assistenza agli immigrati. Ma c'è anche chi è passato dall'Italia e ci ha vissuto, magari per anni, e così parla la nostra lingua, come Mohammad, un giovane palestinese di Rafah. Quanto tempo è che sei qua a Calais? Quasi 3 mesi. 3 mesi che sì. Sei a Calais. Sei qua perché vuoi andare in Inghilterra? Sì. Perché l'Inghilterra? Perché l'Inghilterra è sempre il mio amico, la vita è bella come la casa, come il lavoro, come tutti. E io piace la vita in mezzo, capito? Come piace la casa, la Isia, la Palestina, la... come falanzata, come... piace la vita in mezzo, no? La vita... troppo. Sì, non da ricco, se... non da povero. Bravo. Il viaggio di Mohammad è come quello di tanti altri, dall'Africa all'Europa, passando per il Mediterraneo e sfidando la morte. Dopo la Libia, la Sicilia? Malta, ah. Un giorno. Dopo Sicilia, Milano. E non ti ha mai fermato la polizia? No, mai, sicuramente no. Come hai fatto? Grazie a Dio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quanti anni hai? A quanti anni hai? 20. Mamma mia, sei giovane. Grazie. I migranti vivono spesso di miraggi, illusioni, passaparola che addolciscono o mitizzano situazioni. In Inghilterra tutto andrà bene, si dicono. In Francia tutto andrà bene. Vedrai, c'è lavoro. Vedrai, la polizia non è cattiva. E così si parte, con un numero di cellulare o il nome di una città scritti su un foglietto o su una mano. Sperando che l'acqua del mare non li cancelli. Un parente, un amico, un conoscente è già lì in Europa che li aspetta. La paura è la polizia, essere fermati, essere identificati. In base alla circolare europea denominata Dublino 2, i migranti devono essere identificati appena arrivano in Europa, cioè nel primo paese europeo che toccano. Se poi si muovono e vengono fermati in un altro paese, debbono essere rimandati lì dove sono stati identificati la prima volta. E lì fare eventualmente domanda di asilo o soggiorno, e da lì, eventualmente, essere rimpatriati. Ma come già Mohammad, alcuni migranti riescono ad arrivare fin qui come ombre, invisibili a tutti, anche ai controlli di frontiera. Come Nader, giovanissimo egiziano che parla in francese. Nader, da quanto tempo sei qui? Insomma. Sono qui a Calais da una settimana. E che viaggio hai fatto? Italia? Sicilia? Oui. Sicilia, oui. Lampedusa. Oui. Lampedusa. Oui. Après Catania. Catania. Après Roma. Rome. Oui. Oui. Après Milano Centrale. Milano Centrale. Après Paris. Parigi. Oui. Ma la polizia non ti ha mai fermato? No, jamais. Jamais? No, jamais. Quindi sei arrivato a Lampedusa da solo con la barca, sei sceso, hai preso un'altra barca e nessuno ti ha mai fermato? No, nessuno. La polizia italiana è molto carina, gentile, non come i francesi. Perché hai lasciato l'Egitto? Non c'è lavoro in Egitto, non ci sono soldi. Nader, pensi che in Europa sarà diverso? Sì, in Europa si lavora bene, bene i soldi, bene la casa. E ora sei senza documenti? Sì, ora sono senza documenti. E quindi Nader sarà difficile trovare lavoro? No, no, travail noir. Lavoro nero. Il lavoro nero. Così molti migranti cadono nella rete degli sfruttatori, dei caporali, di chi si fa pochi scrupoli per adoperare manodopera a basso costo. 500-600 euro al mese nei cantieri o nei campi, la metà che se ne va in affitto in fatiscenti stanze da condividere con altri migranti. Restano briciole da mandare a casa, briciole però che possono sfamare intere famiglie. Calais è un non luogo dell'immigrazione, per almeno due motivi. Primo, è un porto. Non si sta a Calais, non si arriva qui per stabilirsi. O si parte o si arriva. Secondo, perché a Calais c'è la giungla. La giungla di Calais, un fitto bosco proprio a ridosso dell'area portuale, della zona industriale, terra di nessuno, dove afghani, curdi, iraniani, iracheni, tutti uomini, hanno costruito capanne e tende utilizzando materiali di fortuna. Rami, tronchi d'albero, fogliame, teloni. Mohamed, qua siamo nella giungla. Jungle troppo difficile. Jungle, io andare in Inghilterra, spatare qua. Tutte sera andare in camion, andare in France. In France, come si chiama? Le barriere sì. Del porto. Dopo prendere polizia, dopo andare qua. Tutte sere così. Troppo abiti qua, troppo difficile. Ma la giungla è casa tua? È la casa? A casa non c'è, piccolo così, plastica. Sono delle tende, delle baracche? Sì, sì. Ad esempio sono arrivati 5 ragazzi nuovi adesso. Adesso arrivati oggi, 2 ore, 3 ore fa. Adesso lavorare qua stasera non c'è andare a camion perché no, come si chiama? Nave non c'è oggi sera, no, stasera non c'è nave andare in Inghilterra per stasera dormire qua, l'altra domani, dopo domani andare sì. In Inghilterra. Adesso li stai aiutando a costruire la loro casa? Sì, adesso bene, no, come si chiama? Tenda, adesso tutte persone, 5 persone ragazzi. Mohamed mi ha portato lui nella jungle. Non è consigliabile andarci da soli, specie dopo il tramonto. Qui è bene avere amici, gente di cui tu ti possa fidare. Nella zona curda della jungle c'è gente armata. Alcuni di loro tentano di gestire l'accesso al porto e farsi pagare per poter partire. Non amano i giornalisti e, mi sussurrano, hanno il coltello facile. Di Mohamed invece mi fido. È alto 2 metri, un campione nel gioco afghano del lancio della pietra a cui assisto. Una vera e propria prova di forza. Siamo una trentina, il sole sta per tramontare. Ma per stanotte nessuno andrà al porto a giocarsi la fortuna. Stanotte non partono navi. Anche la polizia sa di poter star tranquilla. Abdel ha 26 anni e viene da Kabul. I'm from Afghanistan. We are suffering in a lot of problems. Vengo dall'Afghanistan e ora vivo qui. Nella giungla noi soffriamo tanto a causa di molti problemi. Abbiamo superato tante difficoltà per arrivare fin qui dal nostro paese, attraversando Pakistan e Iran. E ora dipendiamo da noi stessi. Abbiamo viaggiato, chi ha potuto, in aereo fino in Turchia, spendendo 2.000 euro. Abbiamo preso il bus. Altri hanno camminato a piedi attraverso la Turchia e il Kurdistan. È molto difficile passare i confini. Poi finalmente siamo arrivati in Europa, l'Italia, la Francia. E ora vogliamo andare in Inghilterra. Qui a Calais puoi vedere la nostra residenza, la residenza di Mal al-Shafat. Mal al-Shafat è il re dell'Arabia Saudita che ha una residenza reale. Noi abbiamo questa capanna, dividiamo tutto, un pezzo di pane per 10 fratelli. La notte è un problema, fa molto freddo, specie d'inverno, e non abbiamo nulla per scaldarci. Noi vorremmo asilo, vorremmo i documenti, non necessariamente in Inghilterra, Se la Francia ci concedesse asilo, noi smetteremmo di passare la frontiera. Passare di lì, passare la frontiera illegalmente, è molto, molto difficile. But if you want to go the illegal in England, it's very difficult. Lascio la jungle che il governo francese ha annunciato di voler abbattere entro quest'anno. Quella jungle nata perché il vecchio centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa nella vicina Sangatte fu chiuso. Attirava i migranti, si diceva, come se uno partisse da Kabul per venire a fare la doccia a Calais. Mi incammino verso il porto quando cala la sera. Allora mi nascondo dietro una siepe e aspetto.